Ricordate, non basta calcolare quante volte si incontra una radice su 24 passi. Dovete escludere anche i casi in cui radice e tronco coincidono, portandovi a fare una deviazione invece del salto.